Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo 9. La caccia alla Legion d'Onore, 30.000 lupi contro due cani arrabbiati. Sotto il nome di Monsieur Madame Mathurin, René Vallée e la sua amante Anna Lecoq, che lui chiamava la Dondon per la sua floridezza, buona soltanto in definitiva a stare in cucina a fare l'amore, avevano affittato un appartamento al 96 di Avenue de Saint-Ouen. Octave Garnier abitava con loro. Vallée si era tinti i capelli di biondo e aveva dotato il suo naso di grandi occhiali con montatura in acciaio, che davano un aspetto assai pretesco. Octave, dal canto suo, s'era lasciato crescere un bel paio di baffi, si era tagliato i capelli a spazzola e li aveva tinti sì da farli diventare corvini. Dei vicini nessuno avrebbe potuto supporre che questi due pacifici giovani benestanti erano celebri assassini. Trascorsero giorni tranquilli, sin troppo. Passi per René, che aveva la sua amichetta e i suoi libri, ma Octave era solo. E leggere non gli piaceva. L'inazione gli pesava, gli frullava in testa Marie. Un giorno, era il 16 aprile, 22 giorni dopo Chantilly, non ce la fece più. Attraversò tutta Parigi in metro, scese alla stazione Sèvres-Lecorbe e prese per le rue Lecorbe verso la rue Jean-Achète, dove abitava sua madre. Era un'imprudenza folle, c'erano tutte le probabilità che la casa fosse sorvegliata. Octave, faccia al vento, mani in tasca, fischiettava con un'aria disinvolta, quasi desiderasse uno scontro con i poliziotti. Fece due volte il giro dell'isolato per la rue Petel. Alla terza volta, come nei romanzi d'amore ben congegnati, Marie comparve sulla soglia con la borsa da spesa al braccio. Vedendolo fermo sul marciapiede opposto che la guardava, sentì un tonfo al cuore, impallidì. Guardò attenta a destra e a sinistra, non notò nessuno della banda di Juin e al suo cenno si precipitò verso di lui. Lo prese subito per il braccio e lo trascinò svelto verso la Square Saint-Lambert. «Sei pazzo?» si lamentò. «Ti prenderanno, devi scappare. Octave, sii ragionevole, lasciami stare. Mai e poi mai, se me ne vado con te». Poi, con un tono più tenero, «Marie, se tu sapessi, ho così bisogno di te. Perché te ne sei andata l'altro giorno?» Non rispose direttamente. «Tua madre si inquieterà, Octave». «La vecchia poveretta», disse Octave, improvvisamente commosso. «Deve essere duro per lei». Non parla che di quando eri bambino. Dovevi essere un pupo bellissimo. Passava un taxi. Octave gli fece segno da lontano. Dovette cacciarvi dentro Marie, che opponeva un po' di resistenza. «Dove mi porti?» domandò a voce bassa quando furono seduti. «Lo vedrai subito», rispose. Disse l'autista di fermare alla biforcazione dell'Avenue di Clichy e dell'Avenue Saint-Ouen, di dove continuarono a piedi. L'appartamento emanava un buon profumo. La Dondon aveva preparato da mangiare e il pranzo fu molto allegro. Non si parlò neanche un minuto degli avvenimenti. René ricordò tutti i personaggi strani incontrati a Bruxelles e a Romainville. Libertad, la sommossa vivente, come diceva Rillette, la manifestazione fatta uomo. Un giorno, in un locale delle Espinets, aveva tenuto una conferenza su Rabelais, curato di Meudon, che senza averlo mai letto considerava l'avo dei ribelli, il padre spirituale dei libertari. Poteva conoscere esattamente il numero dei giovani scontenti convertiti alla buona causa dal suo verbo incendiario e viscerale? Anche le vetrine dei droghieri avevano avuto una funzione importante nella formazione degli illegalisti, degni di questo nome. A Montmartre avevano conosciuto tra gli altri un monello sedicenne che dichiarava guerra ai commercianti di Pollami si credeva un temibile bandito. S'era procurato 6 Browning e 200 cartucce, con le quali si riprometteva di accogliere a dovere gli sbirri il giorno in cui avessero deciso di dargli noia. Purtroppo un bel mattino era andato a fare il bagno nella Marne e la polizia, approfittando del fatto che era nudo, l'aveva messo sotto chiave. E la storia dei soldi falsi? La volta che un compagno che aveva appena dato un Luigi di cristallo a un commerciante si vide rendere dei pezzi di piombo in forma di moneta. Sinceramente indignato, aveva chiamato la polizia. Ora quel compagno, che non avendo pagato l'affitto, aveva tenuto al proprietario un discorso d'1 ora e mezzo sul tema della proprietà è un furto. Così fiorito, così infarcito di citazioni, che l'avvoltoio sopraffatto aveva finito per mollar la presa. Il cinico, il sapiente, dalla grossa testa quadra che conosceva l'inglese, il tedesco, il latino, il greco, l'ebraico e andava in giro in mutande d'inverno perché i pori della pelle che secernevano sostanze nocive elaborate dalle ghiandole sudorifere dovevano essere liberi. Valé sapeva raccontare, si ricordava di tutto, le ragazze avevano le lacrime agli occhi dal ridere. Pure Octave rideva, ma il suo era un riso appena abbozzato. Era un po' geloso del successo del suo amico. Se non avesse visto alla prova il coraggio fisico di René, se non avesse saputo che restava con lui per pura solidarietà, avrebbe senza dubbio finito col disprezzarlo per tutti questi pettegolezzi da reduce. Fu lui a dare il segnale della ritirata. Alle 10 tutti erano a letto. Sovente, nella notte, Marie si svegliò di soprassalto, terrorizzata dal più piccolo scricchiolio di un mobile, dal più piccolo rumore del soffitto. Octave la stringeva subito a sé. Temere nulla, le diceva, presso Monsieur e Madame Mathurin. Allora lei si riaddormentava per 1 ora o 2. Il giorno dopo aveva i lineamenti tirati. Aveva avuto troppa paura. Volle partire. Octave andò in collera. Restò. Osò a prospettare l'eventualità di una partenza solo una settimana dopo. Madame Lescure doveva essere terribilmente inquieta. Per carità, doveva fare un salto in Rue Jean Achète, e poi non aveva portato nulla, né biancheria né indumenti, e neppure una borsetta di trucco. Fu l'ultimo argomento a far breccia. Octave ci teneva a che fosse truccata, opulenta, fastosa. Era il 24 aprile. Nell'autobus apprese la notizia della morte di Juin. Allorché entrò dalla sua quasi suocera, aveva il volto disfatto. Mormorò la prima frottola che le venne in mente e si gettò sul suo letto piangente. Certo, Octave non era responsabile di questo in particolare, ma bisognava sentir la gente parlare per strada della banda Bonneau. Consideravano dei cani arrabbiati, dagli occhi di ferocia da far tremare. All'inizio il rischio l'aveva divertita, l'aveva eccitata. Era stato un bello scherzo, un gioco tra guardie e ladri che la bellezza atletica di Octave e i suoi occhi sfolgoranti rendevano romantico. Aveva potuto costruirsi con poca spesa un mito alla Robin Hood, ma ora la cosa prendeva un pessimo indirizzo. Quel che la gente diceva sembrava vero. D'ora in poi si rifiutò di uscire, persino per fare le commissioni. Nonostante, qualche giorno dopo, sul far della notte, allorché intese un certo fischio, si precipitò alla finestra. Octave le fece un segno mezzo arrogante e mezzo disperato. Questa superbia nei momenti peggiori gli era tipica. Tutti i suoi propositi finirono in niente, ancora una volta. Non poteva abbandonarlo proprio nel momento in cui aveva più bisogno di lei. Si gettò uno scialletto sulle spalle, baciò Madame Lescure, che piangeva in cucina vicino alla tavola apparecchiata, e lo raggiunse. Fu mal accolta. Octave gliene voleva di desiderarla tanto. Ce l'aveva con il mondo intero. Bonneau era stato fatto fuori a mezzogiorno. La cosa puzzava di bruciato. Sei una spia, le gridò stringendo i polsi. Bugiarda, per l'ennesima volta non sei ritornata. Quanto t'hanno pagato per questo? La povera Marie lo guardò con un'aria così disorientata che egli la trascinò via senza aggiungere parola. Un tassì li fermò davanti alla Gare du Nord. La condusse in un buon ristorante e ritrovò il sorriso grazie al sentimento di potenza che gli suscitò l'indaffararsi attorno a loro d'un maître d'hôtel, e affittò una stanza d'albergo per la notte. Il giorno dopo la condusse da un parrucchiere della Place Pigalle con l'ordine di farsi tringere di bruno e di modificare completamente la pettinatura. «Non ci tengo a essere preso per colpa tua», le spiegò. «Entra e sbrigati». Mezz'ora dopo la donna ritornava irriconoscibile. Per 4 giorni ancora errarono per le strade di Parigi senza neppure cercare di nascondersi, consumando i pasti qua e là nelle trattorie popolari dei boulevard, dormendo ogni sera in un albergo diverso, vicino alla Gare de Lyon, poi a Montparnasse, a Montmartre e in Boulevard Barbet. Marie, docile e terrorizzata, aveva rinunciato a preoccuparsi del domani. Una sola volta gli aveva prospettato la possibilità di un viaggio in Svizzera o in Belgio. S'era di nuovo infuriato. Bastava l'idea a ferire il suo orgoglio. Il quarto giorno, in una trattoria del Boulevard des Capucines, che serviva da luogo di secondo incontro in caso di appuntamento mancato, ritrovarono Valet. Gli uomini ebbero in disparte un breve conciliabolo. Dopodiché Octave annunciò a Marie la bella notizia. Erano riusciti ad affittare una villa in un parco nei pressi di Parigi. «Sta tranquilla, Mariette. La vita vagabonda è terminata. Ben presto saremo di nuovo dei borghesi». Effettivamente era il paradiso. La tenuta di Nogent, in quell'inizio di maggio, sommersa nel folto del fogliame dei giardini, coi grandi castagni tutti intorno e la Marna nelle vicinanze. Il proprietario, tale Bonur, ne aveva fatto un tempo una locanda, un'osteria di periferia dove si veniva, come nei quadri di Renoir padre o nei film di Renoir figlio, a far merenda sull'erba. L'età il vecchio Bonur aveva lasciato perdere. Si accontentava attualmente di affittare la baracca per l'annata. Non aveva fatto alcuna difficoltà a Valet e alla Dondon per firmare il contratto di 400 franchi all'anno. Non appena René gli aveva dimostrato di poter pagare la prima rata, aveva semplicemente chiesto, dato il nome Rochette con il quale si presentava, se non avesse nulla a che fare con Rochette, il finanziere. Valet aveva risposto di no e l'accordo era andato. Il gran parco era a forma di triangolo, col vertice che dava sul boulevard de Champigny, un lato che fiancheggiava il viadotto di Nogent e la base parallela alla riva a destra della Marne. Da quella parte un casinò e un ballo popolare, il Moulin Rouge, noto ai giovani parigini amanti dei weekends galanti. Tutto intorno boschetti, giardini, piccoli viali ombreggiati coperti da folte fronde. Dalla parte del viadotto, lungo un muro, 6 piccoli villini con giardinetto abitati da modesti benestanti, da impiegatucci. Non vi si poteva accedere se non attraverso il parco. Separato dagli altri c'era un 7° villino, proprio alla fine del muro, verso la Marna, circondato da un giardino più grande, delimitato dalla parte del viadotto, recintato di fil di ferro, ricoperto da una vegetazione selvatica e chiuso verso l'interno da uno sbarramento boschivo. Vi si era completamente isolati. Sarebbe stato il loro ultimo rifugio. Vi arrivarono il 6 maggio. Marie non poté trattenersi dal batter le mani davanti a questa visione d'incanto. La casa, gli alberi, era proprio così che si immaginava la felicità nei suoi sogni più folli, sin dalla più lontana infanzia. Poi si strinse bruscamente a Octave e singhiozzò. La vita si organizzò tranquillamente. Un'esistenza bucolica ed idilliaca. Marie si fece portare dalla succursale locale del bazar dell'Hôtel de Ville più di 50 franchi di forniture per la casa, brocche, secchi, marmitte, bacinelle, casseruole, lenzuoli, asciugamani. Si andava a tingere l'acqua alla fontana portando la brocca sulla spalla alla maniera basca. «Siete davvero graziosa», disse un giorno una vicina incrociando Marie, «vi si potrebbe fare un bel quadro». Marie rispose con un sorriso e si affrettò a rientrare. Aveva buone ragioni per non voler far conoscenza coi vicini. Peraltro le giornate passavano senza che nemmeno ce se ne accorgesse. Interamente occupati a girellare, a chiacchierare, a far dei lavoretti, a lavare, a decorare. René e Octave passavano ore a montare e a smontare la loro Browning, a lubrificarle, a pulirle, a contare le munizioni, più di 2000 cartucce, simili ad avari dinanzi a un mucchio di Luigi d'oro. Le notti erano fresche e inebrianti, sotto il grande fiumino di Papà Bunur. All'alba venivano svegliati dai cinguetti degli uccelli, tentavano di dimenticare il meccanismo infernale che li aveva condotti a questo Eden provvisorio, senza mai riuscirci. Talvolta qualcuno interrompeva la conversazione a metà, la fronte preoccupata, incapace di continuare a prestare attenzione alle futilità che un minuto prima trovava interessanti. Subito tutti venivano presi dallo stesso abbattimento. Allora Valé recitava una poesia sulla bellezza dei fiori. Alle ragazze venivano le lacrime agli occhi e a questo punto egli scoppiava a ridere, d'un riso canzonatorio e si ritornava alla vita. Ogni minuto così trascorso era strappato al destino. Tutta la loro forza si concentrava sull'attimo presente. Di poter sopravvivere non lo pensavano neppure. La prova è che non avevano mai cercato di scappare all'estero, mentre avrebbero potuto farlo con estrema facilità. Occhi sarebbe parsa un'imperdonabile vigliaccheria. Avevano voluto affrontare la società, l'avevano provocata. Prima avevano vinto numerose battaglie, ora di rinvio in rinvio il vento sembrava cambiare. Non era un motivo per darsi per vinti. Qualora fosse stato necessario, avrebbero saputo morire in piedi, combattendo, le armi in pugno. Avevano una missione da compiere, testimoniare, magari anche con il martirio, l'ignominia di questa società. Su questo non ebbero mai dubbi. La società, per quanto la riguardava, non li dimenticava. Si fece viva al Quai d'Orfèvre nella persona di Monsieur Kinable, piazzista di articoli da illuminazione, loro vicino. L'atteggiamento dei nuovi affittuari del Petit Robinson, la loro eccessiva discrezione, il fatto che non lavorassero, avevano messo la pulce all'orecchio a questo furbastro. Molto virtuosamente egli sentì di avere a portata di mano l'occasione di prendere due piccioni con una fava, liberare per sempre la Francia da nemici dell'ordine pubblico, raccogliere qualche briciola della taglia offerta dalla Société Générale. Riconobbe facilmente Marie in una foto antropometrica, malgrado la sua nuova acconciatura. Anche se non aveva mai visto gli uomini che abitavano con lei, non c'era possibilità di dubbio. Xavier Guichard riunì immediatamente un consiglio di guerra alla Sûreté. Desiderava che a nessun costo si ripetesse la farsa di Choisy-le-Roi. Povero Guichard, le cose andarono assai peggio. Alle 6 del 14 maggio Marie e Valé prendevano il fresco allungati sull'erba sotto gli alberi, godendosi la melanconia di quella bella sera di primavera, quando sentirono, più ancora che vedere, figure sospette al fondo del sentiero che portava al viadotto. Valé balzò in piedi. Intravide il capo della Sûreté affiancato dall'ispettore Legrand e da altri 6 ispettori muniti di scudi nuovi fiammanti che brandiva la sciarpa tricolore a mo' di magico talismano. Il tempo di correre a rifugiarsi all'interno del villino dove Garnier stava riposandosi e i poliziotti raggiungevano la barriera del giardino. «Arrendetevi, siete circondati!» udirono gridare Guichard pieni polmoni. «Preoccuparti, arriviamo», rispose la voce beffarda di Valé. Octave e lui si stavano già dando da fare, ciascuno al suo posto, dietro una porta finestra, proprio come avevano deciso di fare sin dall'inizio in caso di necessità. Valé, con gran disinvoltura, disponeva tutto intorno con cura le pistole e la sua parte di munizioni, in modo da dover compiere il minor numero possibile di movimenti. Dal canto suo sventrava con gesti disordinati i pacchetti di cartucce correndo a destra e a sinistra. Improvvisamente urtò Marie, che se ne stava nel mezzo della sala da pranzo, attonita. Le braccia penzoloni, guardandolo affascinata, inebetita, incapace di compiere un solo gesto. «Che fai qui?» le gridò rudemente. Lei non rispose. «Non è posto per donne», continuò. «Vattene, vattene prima che sia troppo tardi. Qui se ne vedranno di terribili». «Ti amo, Octave», mormorò. «Vai, Mariette, vai», ripeté lui, spingendola risolutamente fuori. «A presto, Marie, in un mondo migliore», disse Valé. Bacia Don Don da parte mia. È stata una ragazza come si deve. Marie era già sulla scala esterna. Gli ispettori, vedendo la porta dischiudersi, s'erano istintivamente appiattiti dietro i cespugli, pronti a sparare, temendo qualche trappola. La lenta apparizione di questa ragazza alta e bella, bruna e pallida, li fece rimanere impalati di stupore. Così dunque questi mostri, questi criminali, questi scannatori, questi cani erano capaci di un sentimento umano? Ciò non quadrava. Non quanto era stato detto sul loro conto. Era imbarazzante. Non si lasciarono tuttavia prendere da questo scrupolo, troppo a lungo. Si impadronirono di Marie e la dichiararono in stato d'arresto. La Don Don, sorpresa sul viale della villa, di ritorno dalle commissioni, era nelle loro mani già da mezz'ora. L'avevano spedita al commissariato. Marie ebbe il triste privilegio di poter assistere fino in fondo all'agonia del suo uomo. L'epopea incominciò immediatamente. Valé, da una finestra del primo piano, colpì l'ispettore Fleury in pieno petto. Octave, più nervoso, sprecò 3 cartucce prima di ferire Caderousse alla coscia destra. Nella casetta ci fu un momento di delirio. L'ho colpito, urlò Octave. Bei petardi per gli uomini di Guichard, e se non son contenti faremo ancora meglio, canticchiò Valé su un'aria di valzer. Di un po', ci sono visite, interruppe Octave. In effetti, mentre Fleury e Caderousse venivano evacuati verso l'ospedale Saint-Antoine, i rinforzi che il capo della Sûreté aveva sollecitato al prefetto di polizia stavano a poco arrivando. Dalla parte del vialetto c'erano una cinquantina di flic in borghese al comando di Monsieur Jean, accorsi di rinforzo ai pochi ispettori che si trovavano in imboscata. Dalla parte del parco arrivarono i gendarmi armati di carabine, guardie municipali di cittadine di periferia. Tutto questo formicolio era posto sotto la direzione della marmaglia abituale, prefetto di polizia, direttore delle indagini, direttore della polizia municipale, giudice di istruzione, procuratore della Repubblica, commissario di polizia locale, graduati di tutte le risme. In seguito apparve all'orizzonte, camminando a marce forzate dal forte di Nogent, un battaglione di zuavi al gran completo, cioè circa 300 uomini, che fu assegnato per la maggior parte a contenere la folla che andava ammassandosi. Distaccamenti in pantaloni viola, il fez in testa, si arrampicarono sul tetto di una villa vicina agli ordini del tenente Tournier. Altri si avventurarono sì su un viadotto. Questi erano armati, avevano il loro lepel, e poi diamine, già che c'erano in guerra. Si va attrezzati da guerra e si erano portate le mitragliatrici. René emise un fischio d'ammirazione, scoprendo tutta questa artiglieria. Non ci prendono mica per gente qualsiasi, sbottò. La cosa divenne ben presto degna dei più eroici fatti d'arme della legione straniera, quando 10 uomini accerchiati in un fortino in pieno deserto tengono testa a migliaia di nemici. Perché si può ben dirlo, a 56 anni di distanza, se Octave Garnier e René Vallée, coi chepi bianchi in testa, avessero sostenuto analogo assedio con analogo coraggio da parte di una qualche tribù marocchina invece che della polizia, la patria riconoscente avrebbe certamente attribuito loro una legione d'onore postuma, mentre i selvaggi assalitori sarebbero stati, dato il loro numero, disonorati per sempre nella mente del lettore dell'Illustration. La storia militare inoltre ci insegna che in simili casi il vincitore rende generalmente omaggio allo sfortunato coraggio dei vinti, cosa che in questo caso non si verificò affatto, bisogna pur constatarlo. Il rumore delle armi di tutti i calibri era assordante, il fischio acuto dei proiettili delle carabine si mescolava alle detonazioni più sorde delle pistole, inframmezzate saltuariamente alle raffiche rabbiose delle Hotchkiss. Octave e René ferirono ancora 2 poliziotti e emisero per l'occasione degli urrà di gioia, galoppando senza sosta dalla cantina alla soffitta, scegliendo accuratamente le posizioni di tiro. Le mani nere di polvere, le Browning fumanti, vivevano momenti esaltanti. Era una cosa grandiosa, tragica, comica, sbalorditiva. Gli zuavi cominciarono a lanciare dal viadotto sul tetto della casa enormi blocchi di pietra. Poi arrivarono le granate, senza nessun successo. Alle 7 si dette l'ordine di suonare la tromba e Guichard, un po' teatrale, si fece avanti, la sciarpa feticcio sempre sul braccio. Garnier, Valet, in nome della legge, arrendetevi, gridò. Per tutta risposta una decina di pallottole gli sibilarono alle orecchie. Allora la mitraglia riprese. A Parigi la notizia dell'assedio si era intanto diffusa, le carrozze percorrevano i Grand Boulevards. 100 soldi per portarvi alla sparatoria di Nogent, scolavano i cocchieri. 100 soldi. I clienti facevano a botte per salire in carrozza. Tassi a cavallo e automobilistici passarono la notte facendo avanti e indietro tra la capitale e la Villa Bunor. Le corse dei tramvai vennero raddoppiate, i treni arrivarono stipati, ripieni di plebaglia furiosa che lanciava imprecazioni, passando sul viadotto all'altezza del Petit Robinson. Alle 7 erano 1.000, alle 8 5.000, a mezzanotte 30.000 o 40.000. Non riuscivano a vedere niente, si spingevano, litigavano. Un cordone di zuavi bastava a stento a trattenerli. Circolavano le voci più folli. Garnier e Valet avevano tentato una sortita. La villa era dotata di un sotterraneo attraverso il quale sarebbero fuggiti al momento giusto. Tenevano in ostaggio il bambino di una vicina, pronti a sgozzarlo non appena fosse stato dato l'assalto. Possedevano riserve di esplosivo ed erano pronti a lanciarlo sulla folla. A poco si organizzò una kermesse. Il casinò del Moulin Rouge venne svuotato. Prosciutti, salami, polli, birra, gazzose, alcol, vino, si dette fondo a tutto. 3 venditori di patate fritte si installarono nei viali del parco. La sera era dolce e tiepida. Delle coppiette si persero per i boschi. Nel campo dei giustizieri regnava il caos. Una pallottola scappata dal fucile di un gendarme bucò la mano di uno zuavo. 2 flic furono feriti, uno ad una gamba, l'altro al ventre, da colpi partiti dalle pistole dei poliziotti. Si attendeva Monsieur Kling, direttore del laboratorio municipale, come il messia. Arrivò alle 8, al cader della notte, munito di melinite. Per 3 volte scagliò delle cariche dall'alto del viadotto. Esplosero una sola volta, ma in aria, senza procurare alla casa il minimo danno. Ciò malgrado, la folla riconoscente emise un «oh» estasiato. Come fuoco d'artificio era molto bello. «Guarda, c'è tempesta», osservò René. Alle 9 arrivarono una ventina di guardie delle compagnie di riserva. Il prefetto di polizia confesserà in seguito, nel suo rapporto, di mancare di rinforzi, tutti muniti di torce a petrolio. Allora tutto fu subito più allegro. E soprattutto fu più comodo per Octave e René, che ebbero modo di reperire con facilità le postazioni nemiche. Per un'ora intera Kling, la cui reputazione era in ballo, mise a punto una macchina infernale di sua invenzione, una bomba inserita in un bidone di benzina. Alle 9:30 il gendarme ciclista Gamarre si appollaiò sotto il tetto di un casotto che dominava il giardino del Petit Robinson, per scagliare l'ordigno. L'impresa fu molto bella, molto fragorosa e perfettamente inefficace. La bomba scalfì appena il bordo del tetto. L'unica conseguenza dell'esplosione fu quella di mandar fuori dai gangheri Valet. Si strappò la camicia di dosso, spalancò la porta e vi si piantò in mezzo 2 Browning nelle mani, incominciando a sparare nel mucchio urlando: «Assassini, assassini!» Delle pensi accasciò colpito al petto, venne trasportato a Vincennes. La melenite era finita, si mandò qualcuno a cercarne unitamente a nuovi rinforzi, una 50ina di guardie repubblicane e un riflettore per accecare i banditi. Ci si sprofondò nell'attesa. Marie si mise a sedere sull'erba, gli occhi pieni d'orrore. Talvolta le sembrava di veder muovere dietro le finestre della villa l'ombra del suo amante. Le labbra le tremavano. Uno, poi 2, poi 10 giornalisti vennero a chiederle in esclusiva la storia della sua esistenza, piena di pericoli e di passioni di donna. d'una bestia selvaggia. Le offrirono denaro, non comprese. Due singhiozzi vuotò il suo cuore, perché avevano l'aria gentile e lei aveva bisogno di parlare con qualcuno. Ne fecero il loro piatto forte. La donna Villemin si sarebbe trovata davanti delle sorprese il giorno dopo, aprendo le edizioni speciali dei quotidiani. Adesso guardava distratta nella penombra, dietro di lei, l'arrivo di nuovi gruppi di spettatori, zerbinotti in abito da sera, donne dai décolleté verticinosi strappati a qualche spettacolo da quest'altro spettacolo più eccitante, seguiti talvolta da un servitore con un cestino da picnic confezionato dal maître d'hôtel di Maxims, con Chateau Landon e foie gras di prima qualità. Gli abitué delle mattine livide della ghigliottina in Boulevard Arago, gli stessi che un tempo avevano fatto impazzire di dolore Valé in occasione dell'esecuzione di Liabeuf. A vederli gesticolare nella penombra, questi eterni sciacalli del partito della FIFA, dal cuore imbottito di biglietti di banca venuti a verificare la partenza delle forze del loro ordine, ci si sarebbe dovuto chiedere quali erano i banditi, se gli altri o loro. Mezzanotte. Irsuti, barbuti, gli occhi fuori dalle orbite, madidi di sudore, Garnier e Valet continuano a sparare. Octave vomita ingiurie sorde e inarticolate, appiattito in un angolo come un gatto. Schignazza agitato con agli occhi lacrime di rabbia. Delle parole gli ronzano in testa, parole che ripete ad alta voce, per sé solo, mentre crepitano le raffiche, contraccolpo che i suoi polsi ricevono. Ogni volta che la Browning spara, quando squillano le trombe degli zuavi, durante gli ululati dei cani poliziotto e nel vento che talvolta agita le foglie, nei momenti di calma sono versi di quei soliloqui del povero, così melodrammatici ai nostri occhi, così vibranti nella sua bocca per il fatto di essere stati vissuti. L'uomo non è nato per la fame, né per vedersi uccisi i desideri, o perché suoi fratelli lo costringano ai lavori più neri e senza gloria, perché si lascia chiudere nelle fabbriche per 40 e 50 anni e più e negli uffici e dentro le officine, mentre di fuori ci sono i cieli aperti? Oh mio Dio, se davvero tu ci fossi, dacci allora la rabbia d'essere liberi e di rimetter tutto in equilibrio, secondo fini di grazia e di bontà. Dopo mezzanotte si fece una sosta. La truppa fece uno spuntino, fraternizzando con le belle dame intorno ad un fiasco di vino rosso. I pompieri avevano finalmente portato il riflettore. Gli specialisti lo fissarono su un arco del viadotto, ma non riuscirono, malgrado il loro zelo e la loro competenza, a cavarne il più piccolo raggio luminoso. Dopo 35 minuti bisognò rinunciare. In casa i banditi cercavano di capire cosa si stesse tramando. Questa calma pareva loro fuori luogo. Valé decise che era meglio fregarsene. «Crepare per crepare», esclamò, «preferisco farlo con la pancia piena, tienimi al corrente», e dirigendosi verso la cucina cominciò a tastoni a mettere sul fuoco una casseruola con spaghetti già cotti. Un nuovo scambio di fucilate lo distolse dalle sue faccende e abbandonò i fornelli imprecando. Quello che Ottava aveva preso di mira era un nuovo arrivato, il ministro degli interni in persona, Stig, che non aveva saputo resistere al desiderio di accorrere sul teatro delle operazioni. Lo fecero battere in ritirata precipitosamente, poi lo stato maggiore ne approfittò per tenere un consiglio di guerra. La maggior parte dei responsabili era dell'avviso di aspettare l'alba per dare l'assalto. Le Pen non voleva neppure sentirne parlare, era in gioco la sua reputazione. 25 candelotti di melenite erano stati appena portati dal forte di Rosny da un tenente degli zuavi. Non si trattava che di utilizzarli. Un maggiore esperto in esplosivi suggerì di introdurre la carica in un piccolo cratere aperto da una bomba precedente proprio ai piedi della casa dalla parte della strada. Era un'operazione delicata. Proprio sopra il luogo c'era una finestra e inoltre bisognava scavalcare uno steccato. Si fecero spegnere le torce, l'oscurità fu totale, che in quel momento nuvole basse nascondevano le stelle. Vennero puntate le mitragliatrici, le pallottole ricominciarono a crepitare da tutte le parti, le Hotchkiss sputarono quanto poterono. Vigliacchi, banditi, assassini, urlò la voce di Valé. Era stato colpito all'anca. In un momento di silenzio si intese la debole barriera scricchiolare sotto i colpi di due tenenti del 23° Dragoni. Garnier tirò a caso in direzione del rumore, fu sommerso da una valanga di fuoco. Marie si prese la testa fra le mani e si tappò le orecchie. All'una questo primo tentativo si concluse in un fallimento. Cominciò poco dopo le due. Fu il coronamento del fuoco d'artificio, l'apoteosi della serata, qualcosa di simile all'eruzione di un vulcano. Una densa fumata grigia avvolse ciò che c'era stato di Petit Robinson. Quando si dissipò, la folla emise un grido di gioia. La baracca era sconquassata, il tetto sfondato, le tende strappate. Ha avuto quel che si meritava, disse uno zuavo con una grande risata. Allora, dopo un intenso fuoco di preparazione, conformemente alle migliori regole dei manuali militari, un'avanguardia si avventurò nelle immediate vicinanze della villa. Un abitante di Nogent, protetto da uno scudo e accompagnato da un cane lupo. All'interno nulla si mosse. Ritornò a far rapporto sulla sua missione, se ne concluse che erano morti o almeno moribondi. Le Pen ordina l'assalto. Uomini muniti di scudi, Guichard, alcuni ispettori, zuavi, guardiani della pace, poliziotti municipali e soprattutto cani poliziotto che emettono lugubri ululati. Avanzano con passo felpato, penetrano nel giardino, sparano dalle finestre e dalla porta. Octave e René rispondono al fuoco immediatamente. La folla rompe i cordoni. Incosciente del pericolo, isterica, vuol farli a pezzi, lacerarli, sezionarli vivi. Cedendo alla tentazione, poliziotti e militari, dislocati a gruppo intorno al giardino, accorrono per veder meglio. È una mischia spaventosa. Nell'interno lo spettacolo è orrendo. Il sangue è schizzato sui muri da tutte le parti, colato a brandelli di carne, di impiantito, di mattoni e di intonaco. In un angolo della prima stanza, in piedi c'è Octave, stordito, abbrutito, incosciente, con la rivoltella che gli penzola dalla mano. Il sergente Piet e degli zuavi gliela strappano, ma certi sbirri li spintonano. Un capitano degli zuavi si vede strappare i galloni nel corso della zuffa. Si sentono colpi d'arma da fuoco. Octave Garnier è morto. Nello stanzino, vicino, accartocciato su un materasso, c'è Valé. Grondante sangue, una spalla straziata, in un ultimo sforzo punta la sua pistola. Assassini, mugola. Spara quattro colpi, gli rispondono in 40. Pel di Carota, il poeta del gran cuore, ha un sussulto. Le labbra si piegano in una strana smorfia. Da qualche parte suonano lugubremente le tre. Un urlo di gioia rugge nei petti, si gonfia ferocemente, echeggia al chiasso di luna mescolato a quello dei cani poliziotto. Marie Villemin ha ormai pianto tutte le sue lacrime e s'abbatte nell'erba madida, dimenticata da tutti. Il giorno dopo, 16 maggio, i corpi di Octave Garnier e René Vallée venivano gettati nella fossa comune del cimitero di Bagneux. Non si era neppure perso tempo ad avvertire la madre di Octave, tanta era la fretta di liberarsi di lui. Costei reclamò a lungo, fanamente, il corpo del figlio. Lo stesso accade per René, suo padre volle fare uno scandalo. Non mi è stato reso il corpo di mio figlio, andò a dire alla Sûreté. Non mi è stato neanche permesso di vederlo, in base a quale diritto? Lo scandalo fu soffocato. Evidentemente era impossibile prevedere che dei genitori continuassero ad amare i loro figli quantunque criminali. 100.000 curiosi si precipitarono sul luogo del dramma. Tutto fu sradicato, portato via per farne dei souvenir, dei gingilli decorativi, dei portafortuna. Un ambulante ebbe la geniale idea di mettere in vendita 10 soldi il pezzo gli spaghetti cucinati dimenticati sul fuoco da Valé. Per far fronte alla domanda ne fece arrostire per conto suo 10 chili supplementari. Ne avessi avuti il doppio, confidò a un giornalista, li avrei tutti venduti con la stessa facilità. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.